Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria in una seduta di borsa molto altalenante. Le borse hanno girato in negativo circa mezz'ora fa, 40 minuti fa, adesso sono sempre lì sulla parità, più 0,1% Milano, Parigi più 0,2%, Francoforte più 0,4%, Londra più 0,1%, l'America invece resta negativa e ha girato anch'essa, ha cambiato segno poco meno di un'ora fa, meno 0,3% al Dow Jones e meno 0,65% l'indice Nasdaq. Euro quota 1,50, praticamente 1,49,85. I titoli, ha girato male Unicredit, meno 2%, Geox meno 1,5%, Buzzi meno 1,4%, Mediobanca meno 0,90%. Tengono la Popolare di Milano quasi il 3% di rialzo, da un lato, dall'altro UbiBanca più 1,2%, bene di nuovo Impregilo più 2,6% come ST Microelectronics, Autogrill più 1,90% come Mediaset. Di cosa ci occuperemo oggi? Torneremo sul tema dell'acqua e perché? Perché continuano a registrarsi dichiarazioni dopo il decreto di ieri, tra l'altro oggi vi sarà un nuovo incontro. È un tema molto delicato e non di facile spiegazione. La privatizzazione della rete idrica, o comunque la possibilità di arrivare a una privatizzazione della rete idrica, anticipo subito che più che, diciamo, il soggetto che controlla, pubblico, in concessione o completamente privato, la cosa importante per chi investe in questo settore è adottare una mentalità tipica da società, diciamo, di capitali, quindi che deve fare anche utile. Per far questo però occorre che l'acqua non venga più considerato come un bene gratuito di fatto, è un bene inesauribile. Se venisse considerato la stregua dell'elettricità e del gas, avremmo probabilmente prezzi più alti ma anche investimenti più alti nella rete idrica italiana, che è un colabrodo soprattutto in alcune regioni del sud. Se arriva al 50% di sprechi su una rete idrica, spesso sprechi dovuti un po' ai furti ma soprattutto alla cattiva qualità della rete idrica. Andremo avanti poi parlando da subito di trasporto aereo, notizie continue di nuove alleanze, nuove fusioni, Ryanair che punta a superare addirittura l'Italia come trasporto passeggeri in Italia, ipotesi di Lufthansa che vuole trasformarsi in una low cost, vedremo poi come, operazione British Airways Iberia. Insomma, il mondo del trasporto aereo, che è comunque un indicatore di come sta andando l'economia, è ancora in estrema difficoltà. Il segno meno è presente in tutti i dati, sia passeggeri europei che passeggeri a livello mondiale, e anche qui si sta assistendo un po' a quello che è avvenuto nel mondo delle quattro ruote, cioè alla fine i soggetti, i players, come dicono quelli che hanno studiato, resteranno 4, 5, 6, questo da vedere, ma non sarà più pensabile avere un mondo fatto di compagnie aeree nazionali, viste le cifre, visti i margini sempre più bassi e la concorrenza devastante per le ex compagnie di bandiera delle compagnie low cost. Poi parleremo dei dati diffusi oggi da Federmeccanica, quindi ci spostiamo sul settore, quello della meccanica, della metalmeccanica, della meccanica industriale, che rappresenta in Italia 1 milione di addetti, è uno dei settori cruciali del nostro export. Ebbene, 1 milione di addetti, settore cruciale, per la prima volta c'è qualche segnale di miglioramento nella parte congiunturale, quindi il trimestre sul trimestre, resta un calo della produzione industriale forte, vicino al 30%. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Ve l'hanno già raccontato i nostri GR, però insomma la notizia oggi riguarda anche le banche italiane, che tramite l'ABI, ossia l'Associazione Bancaria Italiana, riconoscono che a settembre si è creato per la prima volta da anni un calo nei finanziamenti delle banche alle imprese. Allora, so già che la battuta è, ce ne eravamo accorti anche noi, in effetti è mesi che continuiamo a segnalare questa cosa attraverso quello che voi ci raccontate con sms, email e poi con i nostri ospiti in diretta. Devo dire che sul tema dei finanziamenti, del flusso dei finanziamenti alle imprese, ha fatto meno 0,2% rispetto a un anno prima. ma soprattutto è la prima volta che capita, come dicevo, da anni. L'ABI fa notare che questo è dovuto soprattutto a una minor richiesta da parte delle imprese di finanziamenti. C'è chi dice che questo è dovuto al fatto che, non avendo di motivo per investire, non chiedono nemmeno i soldi, e non risulta anche che però vengano in qualche modo, o in alcuni casi, obbligate a rientrare, oppure gli vengono concessi prestiti ma con garanzie molto molto, quindi costi molto molto più alti che nel passato. Le sofferenze lorde, dato sempre dell'ABI, quindi il rapporto tra sofferenze lorde e gli impieghi bancari, le sofferenze sono risultate pari a quasi a 55 miliardi di euro. Le sofferenze sono quei prestiti che poi diventano, come dice il termine stesso, difficilmente esigibili, 3 miliardi in più rispetto all'agosto del 2009 e 11 miliardi in più rispetto a settembre 2008, il 25% in più. Questo va anche detto a giustificazione delle banche, perché insomma, quando aumentano le sofferenze, vuol dire che prestare soldi è oggettivamente più rischioso. Circa 200 dei 1300 operai della Fiat di Termini Imerese hanno occupato il municipio e le stanze del sindaco Salvatore Burraffato. Io ricordo che da oggi sono di nuovo in cassa integrazione dipendenti di Termini Imerese, mentre avremo anche una piccola intervista sul fatto che insomma chiuda definitivamente, lo avete detto, era anticipato da molti giornali, la storica fabbrica dell'Alfa Romeo di Arese, quindi diciamo la fabbrica dell'Alfa Romeo per definizione in Lombardia. È l'ultima uscita da quella fabbrica, la Mito, l'Alfa Mito. Lingotto però, cioè il gruppo Fiat, ha deciso di trasferire il centro a Torino. Resterebbero praticamente ad Arese solo il museo storico, dove sono esposti 250 modelli. È un altro pezzetto di quel miracolo economico italiano degli anni 60 che se ne va. Votazione della fiducia, vedo già molti messaggi sull'acqua, ne parleremo anche domani. Ripeto, il tema è molto articolato e soprattutto non va preso in maniera ideologica. Non che privatizzare sia sempre bene, ma neanche la gestione in questo momento così municipalizzata dell'acqua ha portato grandi risultati, soprattutto in certe regioni del paese. Ancora andiamo avanti per quello che riguarda l'acqua. Ricordo che il decreto Ronchi prevede che entro la fine del 2010 tutte le società che gestiscono il servizio idrico in regime di monopolio devono trovare o debbano trovare un partner privato a cui cedere almeno il 40% delle azioni. Diversamente decadranno prima della scadenza i contratti stipulati senza gara, e poi entro il 2015 i comuni dovranno scendere sotto il 30% nell'azionariato delle municipalizzate quotate in borsa. E questo, devo dire, insomma, non è male, perché oggettivamente abbiamo queste municipalizzate che fanno concorrenza ai privati in maniera, diciamo così, non totalmente ortodossa. Vabbè, da oggi è in votazione anche alla Commissione Giustizia del Senato la riforma della professione di avvocato, della professione forense. Ne abbiamo parlato con gli stessi rappresentanti dell'ordine settimane fa. Comunque la riforma prevede regole più severe per l'accesso alla professione di avvocato, l'esclusione dall'albo di chi non esercita la professione in maniera continuativa, e poi la reintroduzione delle tariffe minime, quelle che aveva levato la lenzuolata di Bersani. Non è un mistero, noi su questo abbiamo sempre detto che invece levare le tariffe minime avrebbe permesso ai giovani avvocati di offrire tariffe più basse, probabilmente con una qualità forse anche più bassa, ma almeno gli avrebbe permesso di stare sul mercato, come avviene per tantissime altre professioni. Evidentemente gli avvocati, quelli dell'ordine, non ci stanno e ritengono che la tariffa minima debba essere reintrodotta. In questo modo, di fatto, congelando la concorrenza tra tariffe interne, so già che questa frase mi creerà qualche problema, ma non importa. Passiamo col primo tema e mi riferisco al trasporto aereo. Un po' di pazienza con l'acqua, vedo molti messaggi sull'acqua al sud, il ruolo della mafia, ne parleremo. Intanto occupiamoci di trasporto aereo, perché oggi, notizia di oggi, ma è l'ultima di un insieme di notizie che arrivano da giornate intere, è nel mirino di SkyTeam anche la compagnia aerea giapponese Japan Airlines. Praticamente Delta Airlines e i partner di SkyTeam, quello che include anche l'Italia, Air France, KLM e Alitalia, stanno preparando un pacchetto di mezzi freschi, ossia dei soldi da poco più di un miliardo di dollari da offrire a Japan Airlines per convincerla a uscire dall'altro raggruppamento, dall'altro network, quello che si chiama One World ed è guidato da American Airlines, ma c'è dentro anche British Airways, Cathay Pacific, Iberia, appunto Japan Airlines, Finnair, Royal Jordan e quant'altro. Lotta quindi a colpi di offerte per entrare nel team uscendo da un altro, ma in tutto questo Japan Airlines ha perso nei primi sei mesi dell'anno un miliardo di euro ed è ai minimi storici in borsa, spettro liquidazione anche per la compagnia aerea giapponese. Questo per quello che riguarda la notizia di cronaca. Ci sono però numerose altre notizie che riguardano il mondo del trasporto aereo. Ecco perché saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato il professor Ugo Arrigo, che è docente di economia pubblica all'Università Bicocca di Milano. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. E buonasera anche al professor Davide Iarac, che è docente di marketing del trasporto aereo alla Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, iniziamo con i dati di settore, professor Arrigo, perché al di là di questa operazione, vedremo se riuscirà di portare anche Japan Airlines dentro il consorzio SkyTeam, noi assistiamo a, dati IATA alla mano, ha una difficoltà che permane. Il traffico internazionale ha fatto a settembre un meno 14% rispetto a settembre del 2008 come volumi di passeggeri. In Europa anche qui da gennaio a settembre si sono persi il 7% dei passeggeri, il 5% del traffico e il 4% dei posti offerti. Non si vede un tentativo di ripresa nel trasporto aereo, professore? No, al momento non si vede ancora e secondo me l'AEA, l'Associazione Europea delle Compagnie di Bandiera, se l'aspettava con l'estate, dopo l'estate, invece i dati continuano ad essere negativi. Però forse più ancora dei dati di traffico, che continuano ad avere il segno meno davanti, sono anche interessanti i dati sui proventi unitari e quindi il ricavo per ogni passeggero che viaggia un chilometro. Questi hanno addirittura ancora un segno meno, ma anche una doppia cifra, e quindi nell'ultimo anno i proventi unitari sono calati del 15-18% un po' ovunque nel mondo, compresi i grandi vettori europei. Professore, faccio una domanda stupida che sono quelle che mi riescono meglio, ma come mai, cioè, se c'è un calo del traffico dei passeggeri, perché immagino la crisi ha portato molte imprese a tagliare tutta l'area business, i voli di business e le famiglie stesse a volare di meno anche per diletto e per vacanza, però tendenzialmente uno potrebbe far volare meno gli aerei, avrebbe costi meno alti, come mai aumenta anche, cioè cala anche il ricavo per passeggero? Beh, in realtà non è così facile ridurre i voli programmati con breve preavviso, insomma bisogna farlo con un po' di anticipo, e in ogni caso se hanno gli aerei a disposizione o in proprietà o con contratti abbastanza a medio termine, per cui e poi succede anche che nel momento in cui si decide di ridurre la programmazione i costi totali dell'azienda diminuiscono meno che proporzionalmente rispetto alla riduzione dell'offerta. Io abbasso la mia offerta del 10%, ma i miei costi non si riducono del 10, si riducono del 5. E quindi conviene in realtà limare un pochino l'offerta, ma cercare di avere il massimo del ricavo possibile da ogni volo, e quindi cercare di adottare quelle tariffe che permettano di portare a casa quanti più ricavi possibili per singolo volo effettuato, e quindi è per questo che nonostante i passeggeri calano anche i proventi unitari, quindi le aziende riducono i prezzi, riducono un pochino le tariffe per cercare di mantenere a bordo comunque un buon numero di passeggeri, un buon load factor. Quindi cioè, è abbastanza anelastica, si direbbe in gergo, l'offerta, non riesce a ridurre il numero di voli. Professor Iarac, da qua a fine anno, cioè a questo punto ci siamo, ma insomma io dico sempre ci sono alcuni indicatori che vanno al di là dell'Istat o di Eurostat, alcune vendite di alcuni generi alimentari, autogrill, ne parleremo, sono tutti indicatori molto empirici, ma capire quanto la gente spende in un'area di servizio è importante per capire quanto si stia avvicinando un'eventuale ripresa sui consumi. Anche il trasporto aereo è un indicatore chiaro dell'andamento dell'economia reale. Voi quando stimate ci possa essere un'inversione di tendenza? Ma io direi che invece l'inversione di tendenza è già visibile coi dati più recenti, non di settembre ma di novembre, nel senso che se noi guardiamo il trasportato cargo, in particolar modo proveniente dal Far East all'Europa, ha non solo arrestato il calo che diceva già lei essere stato violento dall'inizio dell'anno, ma sta registrando un leggero incremento rispetto ai mesi precedenti. Questo a mio avviso non è un dato strutturale, nel senso fa riferimento alla necessità di ripristinare gli stock delle aziende occidentali. Certo. Che appunto per ridurre gli oneri finanziari avevano molto compresso questa leva, ma sicuramente sappiamo che il cargo è anticipatorio rispetto ai passeggeri. E come no? Conversando anche con alcuni operatori del settore, aeroporti europei, mi dicono che novembre 2009 su novembre 2008 segna un leggero incremento, quindi forse in realtà la situazione non è così disruptive come veniva presentata dai dati di settembre, probabilmente ci stiamo anche nel caso del trasporto aereo avviando verso una graduale lenta ripresa. Bene, cioè, ci fa piacere, soprattutto importante quello che lei ricordava sul riempimento dei cargo, perché come noi usiamo il Baltic Dry Index per capire i cargo aerei, in questo caso le faceva riferimento, noi usiamo il Baltic Dry Index per vedere quanto costano i noleggio dei cargo che devono trasportare tutto tranne che il petrolio, e quell'indicatore è importante per vedere come si è ripresa l'attività commerciale. Voi state dicendo che dati alla mano c'è una ripresa nel traffico aereo cargo? Capito bene? Sì, soprattutto dal Far East, cioè soprattutto quello che arriva dall'Asia, assolutamente, a dimostrazione che quel poco di ripresa che si vede, ancora una volta le conferme sono anche empiriche, viene tutta dalla Cina e forse anche con gli ultimi dati dal Giappone. Veniamo alla lotta tra i soggetti, perché io ho usato l'esempio del settore auto, no? In cui ormai diciamo da un paio d'anni, da quando lo disse Marchionne, ne resteranno solo 6 a livello mondiale, un po' alla Highlander, però 6 di noi resteranno vivi. Va in questa direzione l'operazione su Japan Airlines, ma soprattutto anche i tentativi di operazione tra British Airways e Iberia, professor Jarak? Ma guardi, non c'è dubbio che il settore fosse estremamente frammentato e quindi un consolidamento dovesse avvenire. Io faccio solo presente che oggi questo consolidamento porta gli attori a comprare mercati piuttosto che per vettori. L'interesse per Japan Airlines è l'interesse per il mercato giapponese, non per gli asset di una compagnia che è altamente inefficiente. Sicuramente questi consolidamenti stanno avvenendo in un mercato in cui i forti sono diventati più forti e i deboli hanno bisogno di liquidità, e quindi questo è quello che avverrà sicuramente nel caso di Japan Airlines e su altri dossier che sono in questo momento allo studio anche in Europa, al di là del caso che lei già menzionava di un patto tra pari, quale quello tra British Airways e Iberia. Professor Arrigo, mi sembra che il settore del traffico aereo abbia due dinamiche, una congiunturale, ne parlavamo prima, cioè se l'economia rallenta, vabbè, non puoi andare meglio tu, ma l'altra riguarda anche una concorrenza che altri settori non hanno avuto. Cioè, se usiamo l'esempio dell'auto, non c'è mai stata l'auto low cost in realtà a fare concorrenza ai produttori. Nel traffico aereo abbiamo una notizia che dice, insomma, Ryanair punta ad affiancare a fine di quest'anno all'Italia come passeggeri 18 milioni e sorpassarla nel 2010, diventando di fatto la prima compagnia aerea italiana. EasyJet tutto sommato sta andando bene perché ha ricavi in crescita e passeggeri in crescita, e poi c'è questa cosa bellissima della Lufthansa che vi voglio raccontare in una battuta. Praticamente la mitica Lufthansa, una delle principali compagnie al mondo, vuole fare concorrenza alle low cost, e che cosa ha deciso di fare? Di ridurre di mettere degli schienali più sottili, perché in questo modo si risparmierebbero 100 milioni di euro l'anno, che non è poca cosa, aumentando il numero di posti a disposizione. Non so che tipo di schienali saranno, se assomiglieranno delle sdraio oppure no, ma insomma, professor Arrigo, qui tutti vogliono diventare low cost. Beh, diciamo che l'arrivo delle low cost ha molto modificato il mercato europeo del trasporto aereo, forse è stato anche un fatto inatteso della liberalizzazione che si è completata nel 97, e figure come O'Leary hanno certamente portato una serie di novità e di fatti sconvolgenti. Ma io spesso chiedo ai miei studenti qual è la compagnia di bandiera europea, qual è la compagnia di bandiera europea, allora mi dicono Ryanair, perché loro viaggiano con questa compagnia e si avvierà a diventare sicuramente non per fatturato ma per passeggeri trasportati la prima, non solo in Italia ma in diversi paesi, anche sul fronte spagnolo è ovviamente collocata molto bene. E ovviamente questo comporta che le compagnie tradizionali devono adottare il loro modello di business, devono adottare le loro strategie, ci sono anche questi piccoli espedienti del mettere i sedili più ravvicinati o del ridurre lo spessore dello schienale. Io spero che riducano lo spessore, che non li mettano più ravvicinati, perché voglio dire a un certo momento volare con le ginocchia in bocca non è il massimo. No, infatti è piuttosto scomodo. No, meglio in piedi a sto punto. Ma una cosa, professor Jarak, su questo mi sembra che stiano rimanendo spiazzate le grandi compagnie in generale, perché anche questi tentativi di creare dei colossi poi si scontrano, ok, tu metti assieme Giappone, Delta, Air France, KLM, Alitalia, se però poi la concorrenza, le quote di mercato te le erodono, le varie EasyJet, Ryanair e quant'altro, vai poco lontano, no? No, non c'è dubbio, vede, l'aneddoto di Lufthansa lo posso confermare perché l'avevo vissuto anch'io nel board di Lufthansa anni fa, in cui proprio loro avevano sottovalutato in pieno la minaccia dei low cost, pensavano che fosse un fenomeno di moda, in realtà i low cost hanno cambiato strutturalmente il sistema del trasporto. Poi con questa crisi, figuriamoci. Con questa crisi naturalmente tutto questo è esacerbato, non c'è dubbio che i vettori tradizionali possano però imitare qualcosa dai low cost, secondo me non solo in logica di sedili in realtà più ravvicinati o quindi a diminuire la cosiddetta distanza tra un sedile anteriore e il proprio, ma per esempio implementando e sviluppando sempre più l'utilizzo giornaliero degli aerei. Ecco, le alleanze, se implementate in una logica realmente di interconnessione tra i vari operatori, potrebbero forse ridurre la capacità complessiva dei velivoli, ma fare aumentare l'utilizzo giornaliero degli stessi. E quindi andando incontro a quei parametri di eccellenza proprio sull'utilizzo del capitale aereo, quindi intendo proprio l'aeromobile, che i vettori low cost hanno codificato come regola di condotta eccellente. Alcuni di voi vogliono sapere al 349-238-6666 la vicenda British Airways Iberia, c'è qualche problemuccio? Comunque i due consigli di amministrazione hanno siglato un memorandum di intesa che dovrebbe portare alla fusione, insieme avrebbero 15 miliardi di euro di fatturato, 420 aerei, 205 destinazioni, quindi compagnia aerea spagnola e britannica. Un ultimo commento, anche perché lo chiedono molti ascoltatori, su Alitalia. I dati non sono male. Adesso, lo scorso, praticamente ieri, sono usciti i dati sui passeggeri trasportati, 2 milioni di passeggeri da gennaio, 2 milioni a settembre, da gennaio 16 milioni, il riempimento dei posti è al 74%. Qualcosa si sta muovendo, professore Arrigo? Sicuramente l'Italia è andata peggio del previsto nella prima parte dell'anno e sta andando meglio per fortuna in questa parte. Scioperi permettendo. Il terzo trimestre, diciamo, da un punto di vista di conti economici più che di operatività, di prassi, di dipendenti, eccetera. E sicuramente il trimestre è positivo e questo ovviamente risente di una stagione favorevole, però si inserisce in un anno di crisi economica e quindi vedere che l'Italia ha chiuso un trimestre inutile, anche se è quello estivo, quando British, Iberia, Air France continuano a perdere, è sicuramente importante. Loro hanno, secondo me, cambiato rispetto all'originario piano Fenice, hanno cambiato strategia sui prezzi. Il piano Fenice prevedeva di usare il potere monopolistico sulle rotte interne per aumentarli, non lo hanno fatto e in questo modo, in maniera ragionevole, hanno riportato a bordo più velocemente i passeggeri e secondo me ottengono anche più ricavi rispetto all'altra versione, quindi in qualche modo anche loro sono influenzati dall'approccio low cost, no? Non hanno esagerato con le tariffe, anzi oggi sono per passeggero chilometro che vola più basse di 2 anni fa nella media. Beh, interessante questo, perché c'era chi temeva che l'unione di Air One e Alitalia avrebbe ricreato un monopolio de facto e quindi a prezzi più alti. Professor Jarak. Vede, sul caso dell'Italia io invece ho una posizione chiara, io frenerei gli entusiasmi perché naturalmente aver conseguito un utile operativo, che pur comunque è un segnale importante nel trimestre storicamente in cui i vettori aerei portano a casa risultati, perché è il trimestre, diciamo, pieno della stagione estiva, è un segnale non significativo dal punto di vista statistico e dal punto di vista gestionale. Io aspetterei ancora qualche mese, vedrei realmente la chiusura totale dell'anno, soprattutto vedrei anche le strategie che il management vuole implementare per gli anni a venire, perché ancora adesso mi sembra che siamo orientati molto al breve termine piuttosto che a strategie di più lunga durata che veramente possono codificare un forte consolidamento del vettore nel mercato di riferimento. Beh, grazie, anche perché la vedete in maniera abbastanza diversa o parzialmente diversa su alcune cose. Grazie a Davide Jarak, docente di marketing del trasporto aereo alla Bocconi di Milano. Grazie a Ugo Arrigo, che insegna economia pubblica alla Bicocca di Milano. Alcuni di voi dicono, ma insomma non mi parlate sempre dei grandi gruppi, parlate anche delle piccole imprese. Allora, le centinaia di migliaia di piccole imprese se ne può parlare solo a livello aggregato, ed è quello che faremo fra circa 40 minuti con i dati di Federmeccanica, che vuol dire 12.000 imprese metalmeccaniche di questo paese. Non possiamo citare ogni singolo piccolo caso, perché il problema delle piccole imprese è che sono piccole e tantissime. È più facile giornalisticamente parlare delle grandi, ma io vorrei restare sul concreto. Questo tipo di sistema non funziona, soprattutto al sud, ma non solo, cioè noi perdiamo 2 miliardi e 400 600 milioni di euro all'anno di acqua, praticamente tutto il beneficio del liceo, un beneficio comunque fiscale per le piccole imprese, ce lo bruciamo in acqua che va dovunque, tranne che doveva andare in questi casi. Ma ripeto, il decreto va, vota oggi la fiducia e vedremo poi quando arriverà, mi aggiorneranno anche dalla regia se dovesse essere arrivata la fiducia alla Camera dopo essere stato già approvato al Senato il decreto Ronchi. Comunque la borsa, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la borsa ha girato ancora, insomma meno 0,2% alla fine, tutto questo girarsi per poca roba. Parigi invariata, Londra invariata, e poi Francoforte più 0,1%, l'America perde lo 0,4% e ancora il Nasdaq lo 0,8%, molto rumore per nulla, alla fine gli indici sono praticamente invariati. Due titoli bancari molto diversi, Popolare di Milano più 2,6%, è il miglior titolo tra quelli di maggiore capitalizzazione, Unicredit meno 2,6%, il peggiore. Prego. Sì, infatti oggi i bancari hanno avuto un andamento contrastato, hanno tentato il rimbalzo, ma alcuni come Unicredit non sono andati giù. Su Unicredit pesa comunque l'aumento di capitale che si terrà nel mese di gennaio e che è stato proprio varato dall'assemblea nei giorni scorsi, mentre per quanto riguarda BPM è stato un rimbalzo che diciamo è stato comunque sollecitato dalla notizia che BPM Gestioni ieri ha siglato un accordo preliminare per l'acquisto di un fondo da parte di Banca Etruria per 5,5 milioni di euro. Evidentemente l'operazione è stata apprezzata dal mercato ed è stato anche un pretesto per tornare ad acquistare le azioni di Popolare Milano. Ancora tra i titoli, bene oggi, perché di negativo c'è Geox meno 1,7, Mediobanca meno 1,2, c'è qualcosa su Mediobanca? No, di voci particolari o notizie no. Ok, Buzzi meno 1,2, Parmalat meno 1, Mondadori meno 0,80 come Campari e il Monte dei Paschi e Unipol che perde lo 0,6, Mediolanum un mezzo punto percentuale. Fronte invece opposto, Popolare Milano più 2,6 e l'abbiamo detto, Impregilo più 2,4, Mediaset pure più 2,4, Stima Cretonics più 2,3, Autogrill più 1,2 come Finmeccanica, Tenaris più 1,1, Ansaldo più 1% come le CIR e Ubibanca, Luxottica più 0,90%. Finmeccanica. Sì, Finmeccanica continua a beneficiare dei recenti annunci. Ieri la società ha firmato un accordo con Netman e Eurofinger per un valore di 600 milioni di euro per la fornitura di servizi per il supporto della flotta dei velivoli Eurofinger all'aeronautica militare. Poi due giorni fa ricordiamo inoltre che la joint venture ATR, di cui fa parte appunto anche Alenia del gruppo Finmeccanica, si è aggiudicata un altro contratto con la compagnia indonesiana, con una compagnia aerea indonesiana per altri 600 milioni di dollari. Stanno arrivando comunque numerosi e copiosi contratti che ovviamente riaccendono l'attenzione sulla società. Ti interrompo perché l'abbiamo evocato, è arrivata la firma del la fiducia, quindi sul decreto Ronchi, cioè ingresso dei privati negli acquedotti, 320 sì e 270 no, posta la fiducia. Il cuore, lo ripeto, la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, compresa l'acqua, non c'è solo l'acqua, perché il decreto Ronchi prevede anche, vorrebbe anche arrivare a una minor concorrenza da parte delle municipalizzate nei confronti di altri soggetti privati, ecco perché obbliga i comuni entro il 2015 a scendere sotto al 30% nell'azionariato delle municipalizzate che sono quotate in borsa, e poi la parte dei servizi idrici. Va bene, andiamo avanti per quello che ha dei migliori e peggiori, non a caso, e restiamo quindi in tema, Acque Potabili è il miglior titolo, più 21%, che è l'ex Acque Potabili di Torino, e Mediterranee Acque più 14%, i due migliori titoli di borsa oggi riguardano il settore idrico, appunto. C'è chi scommette che con la privatizzazione diventeranno anche interessante il loro giro d'affari. E allora cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di acqua. Stiamo parlando di 5 miliardi e mezzo di metri cubi che vengono erogati ogni anno per i 56 milioni di italiani, 35.000 addetti, 330.000 chilometri di acquedotti in tutto il paese. Ma stiamo anche parlando di un terzo di tutta l'acqua che viene erogata, che non arriva da nessuna parte, un po' viene rubata, ma soprattutto finisce nella dispersione di una rete idrica che soprattutto in alcune regioni è un colabrodo, un colapasta più che una rete idrica. Al sud si arriva quasi al 40%, cioè per ogni 100 litri 40 finiscono da qualche altra parte, nel nord siamo al 23%, nord-est 26%. 2 miliardi e mezzo di euro di spreco l'anno, ripeto, una piccola praticamente lice, quanto è stato richiesto al governo per eliminare l'ICI. Ancora, tradotto in euro significherebbe alla fine uno spreco che va sui 10 miliardi ogni 4 anni. La regione peggiore è la Puglia, dove si arriva a perdere nell'acquedotto più grande d'Europa, l'acquedotto pugliese, la metà dell'acqua che viene immessa. Non male anche Roma, il 35%, bene invece Milano, che ha anche l'acqua più potabile, quella assieme ad altre città in cui il livello di acqua è molto alto, solo il 10% viene sprecato. In Francia siamo alla metà rispetto all'Italia, al 26%, in Spagna al 22%, in Germania addirittura al 7%. E il giro d'affari di 6 miliardi di euro di bollette. Praticamente poi l'acqua è già di fatto diversa come prezzo, in media costa 1,20 euro al metro cubo, però Agrigento, Arezzo e Firenze sono le città dove l'acqua è più cara, non sempre sulla base del servizio, l'acqua di Agrigento e di Firenze è praticamente imbevibile, quella di Arezzo no, e poi ne parleremo, eppure i prezzi sono alti anche qui, non c'è molta corrispondenza tra produttività, diciamo così, del servizio e costo richiesto. La città dove costa meno è Milano, ma anche Isernia e Pordenone. Servono 60 miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni per migliorare la rete, una cifra stratosferica, anche perché finché l'acqua costa così poco, dicono alcuni, non c'è nessun investimento possibile. Altri dicono che, attenzione, gli sprechi sono fatti al di là del costo dell'acqua e che l'ingresso dei privati non garantirebbe necessariamente una migliore efficienza. Io dico una cosa, non so se l'ingresso dei privati mi garantirebbe una migliore efficienza, ci sono vari modelli, in Francia praticamente il servizio è in mano a privati ma su concessione, in Olanda è tutto pubblico come in Svizzera, ma anche in Germania, in Gran Bretagna è tutto privatizzato. Quello che è chiaro è che la situazione così non va e non può andare. Allora sentiamo uno degli acquedotti che hanno tra le perdite più alte, è quello di Palermo, gestito da AMAP, società per azioni con un unico socio, il comune di Palermo. Il direttore Guido Catalano dice: beh, se si privatizza e quindi se entreranno i privati con almeno il 40%, come prevede il decreto Ronchi, sicuramente aumenteranno le tariffe. Buona parte della rete di Palermo è stata rifatta completamente nuova tra gli anni, tra il 98 e il 2003-2002, circa il 60% della popolazione di Palermo ha l'acqua 24 ore al giorno, con delle reti nuove fatte in polietilene, con il finanziamento della Comunità Europea e in parte con dei mutui che l'AMAP stessa ha sottoscritto. Quindi Palermo non è in una situazione particolarmente negativa. E allora, secondo lei, l'esigenza di far entrare i privati è legata a che cosa? Questo lo sa il legislatore. Vabbè, lei si sarà fatto. Bisogna risalire alla legge Galli, che auspicava, si riprometteva l'obiettivo di ridurre le gestioni idriche da 8.000, quante erano nel 94, a un centinaio. Però con un passaggio troppo brusco, secondo me, dall'esistente a quello, diciamo, visto. Secondo me il passaggio è stato troppo veloce, bisogna andare con progressione. Il problema di tutto il sistema acquedottistico, del servizio idrico nazionale, sta nel, sicuramente si richiedono risorse elevatissime per fare i depuratori, le fognature che sono ormai insufficienti in moltissimi comuni, e rifare reti idriche che perdono circa il 50-60% dell'acqua che vi viene immessa. Si sperava con la legge Galli che queste nuove aziende che gestivano realtà molto più grandi di quelle attuali, piccole acquedotti invece grandi ATO, potesse avere le risorse finanziarie prese dalla tariffa. Quindi quello che bisogna capire è che se queste società private o parte privata e parte pubblica, dovranno gestire il servizio integrato, dovranno recuperare le risorse degli investimenti dalle tariffe, che non possono non aumentare. Chiedo una cosa che era già passata, come dire, agli onori della cronaca tempo fa. Cioè, sappiamo che in molte province siciliane la gestione dell'acqua poi è praticamente affidata alla mafia, no? Che controlla, boicotta, fa un po' il bello. Guardi, questo io non lo so, le ripeto, io posso parlare della provincia di Palermo, che la mafia controlla l'acqua, se è così bisogna assolutamente intervenire, però non chiede a me, ecco, nelle altre province, non... Tra l'altro le dico sull'informazione che io ho ripreso, sono direttore generale dell'acquedotto, da meno di un mese lo ero 8 anni fa, per poi ho avuto altri incarichi nel frattempo, quindi certe situazioni generali non le conosco, posso parlare quindi solo dell'acquedotto di Palermo, che è quello che conosco bene. Beh, bellissima questa risposta che il direttore dell'AMAP Guido Catalano ha dato alla nostra Cristina Carpinelli. Io non so niente, a Palermo no, forse a Caltanissetta, forse a Enna, forse a Trapani, ma qui la mafia non tocca. E noi che pensavamo che ci fosse tutto questo commercio di autobotti scoperto dalla magistratura dell'acqua, che i vari siti di stoccaggio, quindi significa dighe, ma non solo, non riuscissero ad essere inaugurati perché la mafia da lì guadagna tantissimo. Evidentemente non avevamo capito che il problema a Palermo era un altro. Il sole, il mare, fichi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quelle che voi chiamate piaghe. Una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, E è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? E nella pezza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. Le 18:09 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere questo primo, ripeto, approfondimento sul tema della privatizzazione, perlomeno parziale, della rete idrica, visto che è stato approvato mezz'ora fa il decreto Ronchi, anche alla Camera, decreto su cui era stata posta la fiducia, decreto che in generale punta alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, a partire anche dall'acqua. Sì, Johnny Stecchino è stato apprezzato. Vabbè, hanno ragione gli ascoltatori che dicono: attenzione, non è che se si privatizza o se si dovesse privatizzare la mafia rinuncerebbe all'affare. Siamo d'accordo, ma questo è per dire che in questo momento in alcune regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, la situazione è già una situazione precaria e assolutamente viziosa, per essere buoni, e non virtuosa. Dove invece qualche virtuosismo, anzi più di uno, si è creato è, come ricordavamo, ad Arezzo. Ad Arezzo, infatti, praticamente la società Nuova Acqua S.p.A. è da 10 anni parzialmente privatizzata. Il costo dell'acqua risulta tra i più alti d'Italia, 386 euro in media di spesa annua a famiglia contro i 106 euro di Milano. E questo è un altro tema, ne parleremo domani. Finché il prezzo resta così basso, viene considerata l'acqua un bene pubblico senza prezzo, è difficile che poi alcune reti idriche facciano gli investimenti. Criminalità organizzata a parte. E sentiamo la nostra Cristina Carpinelli, ha raggiunto anche l'amministratore delegato dell'acquedotto di Arezzo, Jérôme Duziec, che ha spiegato perché questa esperienza sia da considerarsi positiva. Oggi possiamo far parlare alcuni numeri. Ad esempio abbiamo realizzato più di 110 milioni di euro di investimenti e ne sono programmati fino al termine della concessione altre 112. E questi hanno avuto degli effetti positivi decisamente sulla qualità del servizio ambientale. Potrei darvi come un numero caratteristico sulle non conformità rilevate dalla USL in materia di qualità, dove sono state divise da più di 10 dall'elemento della gestione, oppure il numero di utenti che prima rimanevano senza acqua. Nel 99 era superiore a 1600, nel 2004 139 e nel 2009 non ci sono più utenti che rimangono più di 10 ore senza acqua. Quello che però alcuni segnalano è la possibilità che poi l'acqua ai singoli cittadini costi di più se la gestisce un privato. Per me è assolutamente un falso dibattito, perché la tariffa dell'acqua è normata da un decreto ministeriale ed è programmata dall'autorità di ambito. Risulta da un calcolo fra gli investimenti realizzati e i costi operativi sostenuti dalla società. Noi, come esempio di Nove Acque, pretendiamo anche di dire il contrario. Perché questo? Perché non solo facciamo un programma di investimenti che raggiunge il 100% di quello programmato, poi questi investimenti saranno completamente ammortizzati sulla durata della concessione. Cosa significa? Significa che al termine della concessione non c'è un valore residuo degli investimenti e quindi oggi la gente paga e non lascia debito ai suoi figli. Il dibattito, il privato costa di più, non lo condivido e sono convinto che il privato può apportare qualcosa a questo schema. Noi siamo un esempio di società mista. Funziona bene se ognuno fa il suo, cioè la parte privata è in grado di apportare qualcosa, un management industriale di questo servizio? Io credo di sì, se è un esperto effettivamente del settore, mentre la parte pubblica vigila sugli indirizzi, la programmazione della società e un po' sulla territorialità delle scelte. È un matrimonio felice come a casa, se ognuno ha il suo posto ben definito, ecco. E anche questo è un tema, sicuramente quello che vedete a Catoronchio, ossia che il privato possa entrare, anzi con un 40%, non vuol dire la privatizzazione completa del servizio idrico, se pubblico e privato con l'autorità di controllo si dividono i compiti, non capisco perché no. È vero, ci sono casi assolutamente negativi, il caso di Latina era anche citato da molti giornali, è un caso negativo, ci sono casi ancora più negativi, Agrigento, costi altissimi, acqua spesso interrotta nonostante la privatizzazione, abbiamo avuto e citato anche altri casi sul territorio in cui non c'è corrispondenza tra tariffa e servizio erogato. Io direi una cosa, domani torneremo sul tema, citeremo altri casi, ci interessava parlare di due casi, uno virtuoso e uno no, alcuni citano la vicenda autostrade o altre privatizzazioni di questo paese, attenzione perché in realtà l'errore con autostrade fu un errore non nel privatizzare ma nel modo in cui si è privatizzato e poi non si è controllato, lo Stato ha tutti i meccanismi se vuole, come ha dimostrato anche nel passato, fare pressione sui concessionari, non è vero che diciamo, cioè, è stata una resa, se poi lo Stato non lo fa questa è colpa dello Stato, non è colpa del privato. Va bene, va bene, traffico, come dicevamo prima, e poi invece i dati di oggi di Federmeccanica, cioè quasi 1 milione di addetti nel mondo metalmeccanico di questo paese, si fanno i conti a questo punto, includendo anche il terzo trimestre. 349-238-6666 per i vostri sms. Affronta l'inverno in sicurezza con i pneumatici invernali Pirelli. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Un incidente causa 2 chilometri di coda sull'autosole tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Oltre al consueto traffico intenso in uscita dai principali centri urbani, segnaliamo code per la presenza di un cantiere sulla 4 alla barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia e altri rallentamenti per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Lavoria in direzione Livorno. Ci spostiamo in città a Roma, dove ci sono difficoltà di circolazione per una manifestazione tra Lungotevere dei Cenci e Piazza Campidoglio. Sempre interrotta poi la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Roma Tuscolana e di Roma Termini sulla linea Grosseto-Roma. Ci sono autobus sostitutivi per l'aeroporto di Fiumicino, mentre i treni diretti a Civitavecchia, Grosseto, Livorno e Pisa partono dalla stazione Ostiense. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità a soli 50 metri sui tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa tra le province di Foggia e di Bari. Il nostro numero verde per le vostre segnalazioni 800 19 73 13. È tutto, Strade in diretta, torna tra mezz'ora. Promo 24. I professionisti che lavorano spesso fuori ufficio hanno bisogno di un braccio destro nel lavoro, che garantisca di poter gestire sempre e ovunque la propria attività. Per loro, Impresa Semplice di Telecom Italia ha creato TeamFlex, la prima offerta che consente di scegliere e di pagare solo quello che serve davvero. Minuti di telefonate, numero di SMS, minuti di navigazione in rete da telefonino o computer tramite chiavetta. Per esempio, si possono inviare mail senza limiti a solo 1 euro al giorno, senza pagare nulla nei giorni in cui la mail non viene usata, e chi aderisce entro il 31 dicembre avrà in regalo una chiavetta con 20 ore di navigazione. Per tutti i dettagli su TeamFlex, la nuova offerta di Impresa Semplice, si può chiamare l'803 191 o visitare il sito impresasemplice.it. Focus Economia. Diciotto e 17 minuti, ultima parte di Focus Economia in questa puntata in cui siamo partiti dal stato di salute delle compagnie aeree, low cost e compagnie tradizionali, del traffico aereo, per poi spostarci al tema dell'acqua. Adesso arriviamo a un altro settore produttivo, la metalmeccanica, settore cruciale per il nostro paese. Presentati oggi i dati sul terzo trimestre 2009 da Federmeccanica. Anche qui qualche miglioramento, ma insomma, prima di parlare di situazione positiva ce ne vuole. Comunque, in collegamento con noi il direttore generale di Federmeccanica, Roberto Santarelli. Buonasera. Buonasera. Federmeccanica è la principale associazione del settore, raggruppa 12.000 imprese con quasi 1 milione di addetti. Poi arriveremo anche a questo dato di oggi delle banche italiane, dell'ABI, che abbiamo già ricordato in apertura del programma. Però vorrei capire una cosa: voi avete oggi diffuso l'andamento del terzo trimestre e dei primi 9 mesi. Se uno guarda i primi 9 mesi dell'anno per un settore chiaro come la meccanica industriale, insomma, il dato fa spavento: meno 31% quasi la produzione, meno 30,7 per la precisione. Però c'è stato un miglioramento trimestre su trimestre, cioè terzo su secondo. Diciamo, adesso la situazione congiunturale del nostro settore va interpretata alla luce di avvenimenti, diciamo così, molto attuali. Questo rimbalzo che evidenziano i dati statistici si riferisce sostanzialmente al dato di produzione destagionalizzato, che comprende un mese di agosto che è storicamente erratico, come è stato sottolineato anche da osservatori autorevoli, ad esempio la Banca d'Italia, è un dato un po' viziato da questo punto di vista. Comunque quello che si può dire sicuramente è che è cessata la caduta libera della domanda, diciamo così, e siamo in una fase di stabilizzazione. Però quello che ancora manca al nostro settore è un chiari segnali di inversione del ciclo e quindi di ripresa della risalita, diciamo così, del segno più. Ecco, ancora ci manca il segno più. Questo, diciamo, lei ha citato il mese di agosto, che è un mese abbastanza strano, lo ricordo a chi ascolta, più 13% nella produzione industriale, e poi a settembre ha fatto un meno 10%. Comunque, potete dire perlomeno che la parte peggiore è finita? Cioè, se noi guardiamo l'andamento anno su anno, no, siamo ancora un meno 27, però ripeto, i vari trimestri mi sembra che si siano mossi un po' meglio, cioè l'ultimo soprattutto. Ormai la formula che si usa è il peggio alle nostre spalle, io penso dal punto di vista produttivo è sicuramente così, almeno questi sono tutti i segnali che convergono in questa direzione. Quindi se oggi dovessimo raffrontare la situazione, com'è la situazione dell'industria metalmeccanica oggi con quella di 9-12 mesi fa, sicuramente oggi la situazione è migliore. Ciò detto, ripeto, quello che ancora manca è l'inversione del trend e quindi è il processo di risalita. Qui ancora abbiamo delle difficoltà, anche la nostra indagine, quella che conduciamo direttamente presso le imprese, ancora ci dà un portafoglio ordini in leggero calo. Mentre prima precipitava, adesso è il leggero calo. Però insomma, voi volete giustamente il segno più, anche se debole, per poter dire abbiamo fatto il giro di boa. Sicuramente lei, scherzando, diceva ormai tutti dicono il peggio alle nostre spalle, però il meglio non si vede. Ecco, siamo in questa specie di guado, se mi permette, dottor Santarelli. Allora, veniamo agli altri dati che riguardano il settore, perché voi siete un settore a alta occupazione e non è un mistero che proprio sull'asse pedemontano del paese, quello che va diciamo da Milano a Venezia, ma non solo, le difficoltà del settore metalmeccanico sono state particolarmente pesanti. Come sta andando l'occupazione? Ma l'occupazione, devo dire che in una situazione così complicata forse è la variabile che sta tenendo meglio, ma è chiaro che abbiamo messo in campo, il sistema ha messo in campo ammortizzatori sociali importanti, stanziando risorse e dal punto di vista della strumentazione complessiva favorendo diciamo così il mantenimento dei posti di lavoro. C'è anche uno sforzo importante dell'azienda in questa direzione, quindi finora noi abbiamo un fortissimo utilizzo di cassa integrazione che consente di mantenere i posti. Ancora dati di decremento occupazionale, ma siamo ancora in una situazione quasi fisiologica. Certo che se la situazione di crisi produttiva dovesse permanere ancora troppo a lungo e il 2010 non dovesse darci quei risultati di crescita che noi auspichiamo e che in qualche modo anche prevediamo, è chiaro che sul versante occupazionale quello che finora è stato sostanzialmente tenuto sotto controllo potrebbe cedere. Questa è la preoccupazione di tutti, insomma. Voi però avete fatto una stima che forse, se la situazione è avanti così, un'azienda su tre delle vostre 12.000 associate potrebbe presumibilmente dover far fronte a ridimensionamenti occupazionali, che vuol dire insomma ridurre l'occupazione. Sì, che è un dato qualitativo, tenendo conto della nostra indagine di tipo qualitativo, quindi c'è un 30% di imprese grosso modo che prevede di dover ridurre gli organici nei prossimi 6 mesi. Ma d'altra parte, ripeto, se ci riferiamo al fatto che noi siamo in una situazione con perdite di fatturato nell'ordine del 30, 40, 50%, è chiaro che una situazione così protratta per lungo tempo non può che produrre effetti anche sui livelli occupazionali. Esistono incentivi possibili, molti settori li chiedono perché hanno visto che hanno funzionato bene quelli per le 4 ruote, ma anche per le 2 ruote. Sì, ma noi infatti chiediamo che ci siano interventi del governo che da un lato che aiutino e ridiano slancio a un ciclo degli investimenti che in questo momento è sostanzialmente fermo a causa di un eccesso di capacità produttiva sostanzialmente. Noi utilizziamo gli impianti oggi per meno dei 2/3 del loro potenziale. Molto meno di 2/3. E dall'altro abbiamo anche necessità di ridare un po' di fiato a una domanda di beni di consumo durevole che insieme agli investimenti la componente di domanda che più ha risentito della crisi. Quindi, come giustamente lei osservava, gli incentivi sull'auto, sulle 4 e sulle 2 ruote hanno dato, mi pare, risultati positivi. Ecco, si tratta però di non limitare a questi settori, ma dare un impulso a tutto lo spettro così della domanda di beni di consumo durevoli. Anche sugli elettrodomestici sono stati presi i provvedimenti, ma mi pare che abbiano funzionato un po' meno, molto, forse molto perché meno. Troppo macchinosi. Sì, troppo macchinosi. Si tratta di fare uno sforzo in questa direzione. Sì, anche nell'arredo, ma insomma... Nell'arredo, sì, sì, io parlavo di metalmeccanica adesso, quindi... Sì, è vero, alcuni di questi incentivi, nel caso specifico del legno arredo e anche il settore degli elettrodomestici hanno funzionato molto poco, proprio perché appunto non di automatica esecuzione, ecco. Rispetto a quelle dell'auto o delle 2 ruote. Un'ultima domanda, visto che oggi, come ricordavamo anche in apertura, c'è questo dato dell'ABI in cui l'Associazione delle Banche Italiane prende atto che per la prima volta dopo molti anni di crescita ininterrotta è calato il flusso di finanziamenti delle banche alle imprese. Noi in qualche modo avevamo avuto un sospetto a giudicare dalle mail e dalle dichiarazioni di molti imprenditori che ci arrivano, beh, insomma meno 0,2% rispetto a settembre del 2008. Qual è il rapporto delle vostre imprese che spesso hanno bisogno di investimenti grossi, perché i macchinari industriali, la metalmeccanica è fatta di investimenti pesanti, con il mondo bancario? Ma guardi, intanto prendo atto del fatto che anche l'ABI dice che c'è un segno meno all'erogazione del credito per la prima volta. Ecco, noi lo dicevamo da tempo, finora si era detto che tutto considerato il credito cresceva, mi pare che adesso dobbiamo prendere tutti atto che invece così non è. Ci ho detto, vale quello che negli ultimi tempi Confindustria e altre organizzazioni imprenditoriali hanno con forza affermato, che c'è adesso, sarebbe ozioso fare una disquisizione se si tratti di credit crunch o di altro. La sostanza è che noi abbiamo imprese che hanno assoluta esigenza di credito e per gli investimenti, ma anche di liquidità per gestire diciamo così la fase corrente, e su questo incontrano grossi ostacoli, insomma, perché insomma, c'è un atteggiamento innanzitutto molto più selettivo da parte delle banche, e questo, e non sempre la selezione viene fatta su parametri adeguati, diciamo così, rispetto alle necessità e alla realtà economica delle imprese. Sì, va detto, non per fare l'avvocato difensore dell'ABI, ma perché non è presente che l'ABI, cioè le banche italiane, sostengono che questi prestiti delle imprese sono calati da un lato perché c'è meno richiesta, diciamo, da parte delle imprese di flussi di capitale, evidentemente se l'attività non gira, questa è la spiegazione dell'ABI, non chiedi soldi per fare investimenti. Dall'altro, sempre l'ABI oggi ha fatto notare che sono aumentate le sofferenze bancarie anche negli ultimi 10 mesi, un più 25%. Comunque, in bocca al lupo anche a voi, come diciamo sempre a tutti coloro i quali rappresentano settori importanti, settori produttivi del nostro paese. Grazie al direttore generale di Federmeccanica, Roberto Santarelli. Grazie a lei, buonasera. E alle 18:27 termina la puntata odierna di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. Domani torneremo e parleremo di, come promesso, privatizzazione parziale dell'acqua. Di nuovo altri commenti e interventi. Ripeto, il tema è molto articolato, e anche della tariffa minima per gli avvocati che verrebbe o dovrebbe essere ripristinata. A domani.